mi lascia al buio il pre del dubbio. Urli, salvami da questa illusione. Sei eterno però, non lasciarmi infelice svegliandomi. Non permettermi di guardare, capire e congelare. Strappami gli occhi, cibati di loro. Se essi vivessero ancora con me, io sarei comunque morto. E poi tra un viaggio reale e un altro surreale comprendo. Non sono veli di panno trasparenti su di me, lo so. Sono limpidi ora e vedo bene. Tempo che vola via di tanto in tanto. Un quadro sconosciuto me soggetto, proiettato nel futuro più piatto. Più rancori che altro, più emozioni senza altro. Ma d'altra parte più niente c'ha un senso. È soddisfatto, urlic, sedotto, urlic. Sicuramente sì, pigliando sicurezza, nuove verti. L'era dei suddetti, sottili a massime, minimizzando nei concetti. Io amo il mio silenzio, ogni mio fatto dubbio. Una di tubanza nerd è l'eterno aspettare di capire cosa è meglio, come, quando è meglio. Dietro lo spiraglio, un mondo nuovo di cui non mi meraviglio. Non voglio né cercare né capirlo. La figura che ho ideato di me non mi realizza affatto. Uccide Matto Marco, ti chiedi se potrò capire mai. Ma ho capito anche fin troppo bene. Yoda guarda sotto al tappo, non è niente affatto. Riprova e ti cadiamo un altro pacco. Dinamiche croniche, affette navità. Urli che è poesia, l'uomo senza qualità. Ma urli che è poesia, l'uomo senza qualità. Ma urli che è poesia, l'uomo senza qualità. Ma urli che è poesia, l'uomo senza qualità. Ma urli che è poesia, l'uomo senza qualità. Tre metà credono in Dio, nel progresso e nel passato. L'altra metà crede in un delirium tremens pagato dallo Stato. Le stesse cose tornano, è un maniconico groove. Tutta la ricerca del sano san humus. Ma sine nus, sine nus, sine nus, sine nus, sine nus, sine nus, sine nus, sine nus, sine nus. Vivo solidale all'interno del mio gap. Vivo solidale all'interno del mio gap. Vivo solidale all'interno del mio gap. Urli che è poesia, l'uomo senza qualità. Mm-hmm.